ardir, ha forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio, della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi. Sorprendenti, l'olio s'accoccia e vi Pandoro il vaso. Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta? Ah? Che cosa?